A bordo campo di Dario Ricci. Rientra sul destro, il cross sotto porta, il colpo di testa di Robben, rete! Il gol di Robben, l'Olanda è in finale mondiali, 32 anni dopo Argentina 78. Lui non doveva partire in Sudafrica e partecipare al mondiale, adesso noi abbiamo il danno. Adesso stiamo discutendo con la federazione olandese di trovare una soluzione che vada bene un po', diciamo, a tutti quanti. Io spero che sia possibile, altrimenti dobbiamo fare una cosa legale contro loro. Ebbene, i gol a Sudafrica 2010 dell'olandese Arjen Robben e le parole del presidente del Bayern Monaco, club in cui milita l'attaccante Orange, Karl-Heinz Rummenigge, ben introducono l'argomento della prima parte di A Bordo Campo di oggi, perché proprio intorno a Robben si sta giocando una partita dagli esiti imprevedibili. Infatti, dopo una straordinaria stagione col Bayern, Robben si unisce alla nazionale olandese per partecipare a Sudafrica 2010. Nell'ultima amichevole premondiale contro l'Ungheria si infortuna a un muscolo della coscia sinistra. Salta le prime due gare mondiali, poi torna in campo e trascina i tulipani fino alla finale, persa poi con la Spagna. Ma al rientro in Europa si scopre che la lesione subita è tutt'altro che guarita. Risultato: Robben lontano dai campi fino a gennaio e Bayern Monaco pronta a un'azione legale contro la Federcalcio olandese. Ce n'è abbastanza, insomma, per riscrivere la storia dei rapporti tra club e federazioni nella gestione dei calciatori. Ed è proprio di questo che parliamo oggi con il primo dei nostri due ospiti, l'avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti in Italia di giustizia sportiva, docente di diritto, legislazione ed economia dello sport nelle università di Bologna, Milano, Roma, Firenze e Cagliari. Avvocato Grassani, benvenuto a Bordo Campo. Allora, ci spieghi qual è il punto di partenza della controversia tra Federcalcio d'Olanda e Bayern Monaco sull'infortunio di Robben? Il punto di partenza direi che è stato posto da uno sconosciuto calciatore marocchino che si chiamava Olmers, è giocatore della società belga di Serie A Charleroi, che giocando una partita con la sua nazionale nel Marocco si infortunò seriamente, parliamo del novembre 2004. Questo giocatore, Abdeljamid Olmers, intentò una causa nei confronti della federazione marocchina, o meglio il suo club, lo Charleroi, chiedendo appunto il risarcimento del danno per non aver potuto disporre del proprio atleta per numerosi mesi in quanto infortunatosi in nazionale. Quella causa, per la verità, non è mai arrivata a sentenza perché fu definita come un accordo transattivo. Da allora gli episodi ce ne sono stati tanti. In Italia addirittura ricordiamo il caso di Nesta, infortunatosi nei mondiali del 98 in Francia, che sollevò legittime richieste da parte dell'Astra di Cragnotti. E oggi, dopo una serie di purtroppo negative esperienze in questo senso, possiamo dire che le attenzioni da un punto di vista di rimedi e di assicurazioni che i club adottano non sono comunque sufficienti. Primo perché il regolamento è un regolamento lacunoso che non impone nessun tipo di obbligo risarcitorio da parte delle federazioni o da parte delle confederazioni che organizzano i campionati, perché non dimentichiamoci che da un lato ci sono le federazioni che impiegano i giocatori di club nelle rappresentative nazionali e poi ci sono anche le confederazioni, quindi UEFA o FIFA, che organizzano poi le competizioni, per cui ad oggi non c'è una normativa che regoli chi deve pagare che cosa e quali adempimenti, quali attenzioni, salvo le normali assicurazioni, ma quelle sono assicurazioni che coprono i rischi di invalidità e di inabilità temporanea dei giocatori, non certo assicurazioni che riconoscano risarcimenti ai club che si vedono privati di pedine importanti per infortuni occorsi durante le partite delle nazionali. Pur vero che sia UEFA che FIFA hanno provato, diciamo così, a metterci una pezza, no? Recentemente agli europei del 2008 e ai mondiali di Sudafrica 2010 è stata definita una cifra forfettaria giornaliera per in qualche modo risarcire i club dell'utilizzo in nazionale dei vari calciatori, no? La FIFA ad esempio $1,600 per ogni giorno di impiego nei mondiali di Sudafrica 2010, cifra che raddoppierà in occasione di Brasile 2014, UEFA €3,000 al giorno per gli impegni nei campionati europei. Ecco, mi sembrano soluzioni capestro, perché chiaramente non solo per per l'entità della cifra quanto per il quadro normativo che lei definiva, avvocato. Ma sì, sono interventi assolutamente estemporanei. Calcoliamo che una competizione o continentale o mondiale dura al massimo 30 giorni, moltiplichiamo 1.600 dollari oppure 3.200 dollari per Brasile 2014, arriviamo ad un massimo di 90.000 dollari. Nelle recenti qualificazioni per i campionati europei del 2012 il tedesco Mert Schack si è fratturato l'orbito oculare in una partita tra l'altro insignificante, Germania-Azerbaijan, vinta 6-1 dalla Germania. Ebbene, Mert Schack non si sa quando rientrerà, con un danno enorme per il suo club. Il romanista Riese, che si è infortunato durante Norvegia-Portogallo, ma da questo punto di vista ci dovrebbe essere una durissima posizione dell'ECA, l'Associazione Europea dei Club. Se l'ECA a livello mondiale, continentale, ha assumesso una posizione di intransigenza, è ovvio che a questo punto forse si potrebbe trovare una definitiva regolamentazione, che non può non passare attraverso un'assunzione di responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria da parte delle federazioni e delle confederazioni che organizzano le competizioni nei confronti dei club, che sono i veri datori di lavoro dei calciatori e che pagano, tra l'altro, questi giocatori anche quando sono infortunati. Grazie all'avvocato Mattia Grassani che, come avete sentito, ha citato l'ECA, la European Club Association, l'ente che riunisce 144 club da 53 federazioni europee. Presidente lo stesso Rummenigge, vicepresidente vicario Umberto Gandini, direttore organizzativo del Milan in collegamento con A Bordo Campo. Dottor Gandini, benvenuto. Ecco, ci spieghi bene la posizione dell'ECA su questo dibattito. La posizione dell'Associazione Europea dei Club è molto semplice. Oggi gli statuti FIFA prevedono che l'obbligo di assicurazione dei giocatori selezionati dalle squadre nazionali gravi sui club che li hanno sotto contratto. Noi riteniamo che questa cosa sia anacronistica, ormai arrivati a questo punto, e chiediamo che le federazioni nazionali o gli organizzatori delle competizioni, nel qual caso le varie confederazioni internazionali o la FIFA stessa, si prendano carico di stipulare un'assicurazione a favore dei club. Tutte le volte che succedono dei casi eclatanti come quelli di Robin se ne torna a parlare e diciamo che adesso c'è la determinazione dei club ad avere una maggior voce in capitolo. E abbiamo già la fortuna di aver trovato comunque una rispondenza da parte dell'UEFA che considera le nostre richieste legittime e che ha espresso il desiderio di appoggiarci. Abbiamo un memorandum of understanding, un accordo in essere che va a scadere nel 2012 con la UEFA e con la FIFA, e nell'ambito della rinegoziazione e di discussione di questo accordo siamo sicuri che troveremo spazi e modi per far valere le nostre rimostranze e poi vedremo quali tipo di risposte riceveremo. Perché diciamo il caso Bayern Monaco è in qualche modo stralciato dalla situazione generale? Ma per il semplice fatto che è un caso particolare, è un caso già esploso, è un caso che sta seguendo la sua strada e che ovviamente richiede moltissimo tatto e diplomazia. Come dicevo prima, a livello regolamentare nessuno può accusare oggi con gli statuti esistenti alla federazione olandese di aver agito male o di non aver rispettato le regole. Peraltro la federazione olandese è una di quelle federazioni che ha con le squadre del proprio paese un accordo simile a quello che succede anche in Italia. Ad esempio, voi sapete, la federazione italiana ha stipulato da tempo un'assicurazione integrativa a favore dei club nel caso in cui i giocatori rilasciati dalle squadre italiane si infortunassero, però queste sono situazioni isolate e comunque rivolte a squadre dello stesso paese. Con quello che noi abbiamo oggi, con la circolazione dei giocatori, con l'effetto della libera circolazione dei comunitari, noi abbiamo giocatori di varie nazioni che giocano nella stessa squadra in un paese come l'Italia e che vengono selezionati da federazioni diverse con le quali non esistono protocolli di intesa o rapporti di questo tipo. E quindi noi chiediamo che ci sia una revisione dello statuto, che ci sia si trovi una soluzione condivisa. Peraltro i numeri sono abbastanza semplici, anche se possono essere impressionanti dal punto di vista dell'entità. Si tratta semplicemente di stipulare una assicurazione con probabilmente più di un broker, più di una compagnia di assicurazione a livello mondiale, che intervenga non soltanto nelle fasi finali, che sono tutto sommato quelle di maggior visibilità e sono quelle che, diciamo, generano i ricavi, ma anche tutte le volte che un giocatore viene preso da una federazione per una partita amichevole o una partita di qualificazione. Dopodiché si apre anche l'aspetto relativo ai calendari, che comunque riguarda un'altra disputa che abbiamo intenzione di sollevare. Quale può essere la migliore soluzione condivisa e quali i tempi a questo punto? Ma i tempi non sono sicuramente immediati, credo che ci vorranno un paio d'anni per trovare una soluzione. Noi abbiamo già in essere un accordo per quanto riguarda il Mondiale 2014 con la FIFA, per la quale ci saranno 70 milioni di dollari che verranno divisi pro quota per giorno, per giocatore, a tutti i club che avranno giocatori selezionati per questa fase. Ecco, probabilmente un'integrazione di questa cifra dedicata a coprire i costi di un'assicurazione perlomeno comincerebbe a ridurre la portata del problema. Però, come dicevamo, non si tratta soltanto di fasi finali, si tratta anche di partite di qualificazioni e partite amichevoli. Insomma, situazione in piena evoluzione e che seguiremo attentamente. Grazie ad Umberto Gandini per essere stato nostro ospite. A bordo campo. E correndo, correndo di notte da solo, prendi la tua tuta blu. Stella, stella, crudele e sincera, fammi correre di più, fammi correre di più. Quella che vi raccontiamo oggi a bordo campo è una storia di calcio, di passione per il calcio. La storia di un talento prodigio che prima è stato scoperto, poi si è perso e ora si sta ritrovando ripartendo dalla provincia e proprio dall'amore per il pallone. Perché Vincenzo Sarno, napoletano, 22 anni, mezza punta, tutta fantasia e un sinistro da urlo che oggi dà spettacolo sul campo di Busto Arsizio con la maglia della Pro Patria in seconda divisione, famoso lo è diventato ben presto. È il 1999 quando Vincenzo, 11 anni, cresciuto nella scuola calcio Gaetano Scirea di Secondigliano, conquista le prime pagine di tutti i giornali quando viene acquistato per 120 milioni di lire, cifra di cui lui non vedrà un centesimo, dal Torino. Per il bambino prodigio si aprono allora le porte dei salotti buoni della TV. Dai campioni del calcio a un bambino che ha un sogno. Benzino, vuoi venire un momento? Allora, incoraggiamolo. Mi date il microfono. Buonasera, vieni qua. Tu dove giochi? Che ruolo? Attaccante. Attaccante? Ma li fai gol? Sì. Che devo fare? Ma il tuo sogno è di giocare nel Napoli? No. No. In quale squadra vuoi giocare? Nella Juve. Nella Juve? E vabbè. È come Maradona, dicono di lui a Secondigliano. Intanto le comparsate TV continuano, il bambino fenomeno, l'erede di Dieghito, tra palleggi, finte e gol, tocca con mano i suoi idoli che un giorno sogna di sfidare sul campo, come Alex Del Piero. Ciao Vincenzo intanto. Ciao. Ciao. Tra campioni è un po'. Guarda, io spero vivamente che lui faccia carriera, che abbia tutte le fortune possibili. Spero altrettanto che adesso continui a giocare, a pensare come un bambino di 10 anni, come è giusto che sia, che si diverta soprattutto perché gli piace giocare a pallone. Ironia della sorte, Vincenzo, tifoso juventino, va a Torino per vestire la maglia dei Granata. A Vincenzo è toccata questa bella sorpresa perché è stato selezionato e entra a far parte dei pulcini di una grande squadra, una squadra con una grande tradizione, una grande storia, che è il Torino, i Granata di Torino. Il resto della storia non va come sperato. Dopo appena 2 mesi a Torino, Vincenzo, solo in una città dove non conosce nessuno, è vinto dalla nostalgia e chiede di tornare a casa. Poi tra i 13 e i 16 anni è nelle giovanili della Roma, ma la grande occasione sfuma ancora. Inizia così una carriera fatta di tanta Serie C, San Giovannese, Giulianova, Potenza, qualche gara in B col Brescia, prima di approdare oggi a Busto Arsizio. Lo abbiamo pescato negli spogliatoi della Pro Patria, dopo uno splendido gol, di sinistro ovviamente, alla Paganese. A 22 anni è un ex bambino prodigio, dal grande futuro dietro le spalle, ma con ancora tanti sogni da realizzare su un campo di calcio. E correndo, correndo di notte da solo, prendi la tua tuta blu, sono contento per il gol, soprattutto per i tre punti della squadra. Ecco, ce lo racconti un po' quel gol, perché io l'ho visto in televisione, ho visto un sinistro che francamente mi ha sorpreso. Chi viene di solito allo stadio a Busto Arsizio invece ci ha fatto un po' la bocca a questi colpi. Sì, sono entrato e tirato da fuori area, niente di particolare. A me è venuto quasi da dire un gol alla Del Piero, solo che Del Piero quelli li fa di solito col destro, tu l'ha fatto col sinistro, insomma. Cambia qualcosina, sì. Beh, vabbè, comunque è un bel talento. Senti, quando ti sei reso conto un po' delle potenzialità che aveva questo tuo sinistro? Perché tu sei diventato, insomma, famoso per il fatto, il bambino prodigio, ha già 10 anni, questa cifra di astronomica di cui adesso parleremo, so che è tutta una balla, insomma. Se parliamo del futuro, del presente, sono disponibile. Se devo parlare del passato, preferisco non fare niente. Mi sono un po' rotto, sinceramente, fa parte del mio passato, rimane il mio passato, punto. Un ragazzo come tanti altri, ci sono altri ragazzi in squadra che hanno 17, 18, 16, i talenti stanno lì in Serie A a giocare alla Champions, che a 22 anni già hanno vinto 3 campionati del mondo, Champions League, voglio esserci 2. Però è pure vero che il calcio italiano non è particolarmente benevolo con i giovani talenti, no? Sicuramente si sono svegliati un po' troppo tardi per dare spazio ai giovani. Speriamo che continuino così, che sarà sempre di più, che ci danno più spazio ai giovani che, diciamo così, i vecchi. Ecco, ma ti chiedo, anche a partire da quella che è stata la tua esperienza, perché il nostro calcio, che pure è uno dei movimenti più importanti al mondo, ha questo limite che definirei strutturale? Quali sono i limiti del sistema che porta poi alla crescita, alla maturazione del talento? Me lo sono sempre chiesto, perché no, se un giovane è bravo, secondo me deve giocare, punto. Ma non importa se ha 17, 18 anni, all'altro ce n'ha 30, magari ha più esperienza, sì, ma se un giovane è bravo, secondo me deve giocare, basta. Per fortuna sono 2-3 anni che danno più spazio ai giovani. Prima c'era un po' di meno, danno spazio i soliti, diciamo, i ragazzi di categoria, diciamo i trentenni, così, e non davano spazio ai giovani. No, prima c'era un po' di nonnismo, adesso non c'è più, ma adesso è tutto, almeno qui nel nostro spogliatoio è tutto, siamo tutti bambini, diciamo. Senti, a 22 anni sei comunque titolare in Serie C, sognare in grande comunque è ancora legittimo, no? Mi reputo ancora un ragazzo giovane, di prospettiva, so che devo lavorare per magari un giorno arrivare a realizzare il mio sogno, che è quello di giocare in categorie più superiori. Vogliamo dirlo, Serie A? Vabbè, quello penso è il sogno di tutti i bambini, che c'hanno tutti i bambini e tutti i ragazzi della mia età che giocano a calcio. Il sogno è quello di diventare un giocatore di Serie A. L'essere stato per tutti questi anni, insomma, periodicamente al centro dell'attenzione dei media, del mondo del calcio, eccetera, eccetera, ti chiedo che cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto? Non l'hanno solo tolto i media, hanno esagerato, e a me non mi ha fatto bene, anche perché io non ho un gran rapporto con i giornalisti, perché non, diciamo che sono, non vorrei mai parlare, fare interviste, però sono un ragazzo timido, spingono troppo, fanno troppi elogi e poi magari un giovane si può montare la testa e non va più in campo tranquillo e divertirsi. Qual è un po', secondo te, il rimpianto più grande di quella fase della tua vita che adesso è passata, che abbiamo detto? Cioè, che cosa in effetti non rifaresti? Sinceramente, e non andare via da Torino, che ero troppo piccolo, avevo solo 10 anni. Dopo 2 mesi avevano promesso di mandarmi su i miei genitori. Dopo 2 mesi non l'hanno fatto. Io non riuscivo a stare senza i miei genitori, sono andato via. Magari se stavo lì a Torino qualcosa in più potevo fare. Ti senti di poter dare magari anche dei consigli a una famiglia e soprattutto a un ragazzino che magari talentuoso nel giocare a calcio si avvicina a questo mondo? Sicuramente a parte la famiglia deve stare fuori, non deve dare pressione al figlio, niente. Il figlio deve andare prima cosa a scuola, poi deve andare in campo e si deve divertire, punto e basta. Descriviti un po' come calciatore, no? Eravamo partiti da questo sinistro che incanta, come ti piace giocare, come ti piace muoverti? Oh, classico trequartista, ponte esterna, piccolino. L'esempio da imitare in questo senso per te e per la Pro Patria magari può essere quello del Novara, no? Che sta facendo benissimo. Sì, sicuramente. Speriamo bene, quest'anno puntiamo subito a vincere il campionato. Non ci nascondiamo dietro nessuno, puntiamo a vincere il campionato per ritornare subito in C1, che l'anno scorso è stato un po' un anno così. E poi sicuramente andare a vincere pure il campionato di C1, che abbiamo i giocatori e la società per farlo. Beh, anche perché da Busto Arsizio a San Siro poi non è che sia così lontano, no, il passo. Magari. Come ti immagini in campo e fuori fra 5 anni? Che Vincenzo Sarno ti immagini? Mi immagino con la maglia della Pro Patria in palcoscenico più grandi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci come tutti i programmi di Radio 24 sul nostro sito www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.